Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Silenzio, grazie. Motore. 14:1 seconda. Movimento. Azione. Oggi siamo su un set cinematografico. Il regista ha appena dato il via alle riprese e il protagonista del film si prepara a recitare una scena importante. Nessuno avrebbe scommesso che l'attore chiamato dal regista a impersonare un personaggio difficile e impegnativo sarebbe stato così bravo. Eppure, giorno dopo giorno, nelle nebbie mattutine di Pavia, dove è ambientato il film, tutti si rendono conto di quanto la scelta del regista sia stata azzeccata. Siamo nel 1952 e il cinema è saldamente ancorato a quella corrente culturale spontanea e non codificata che è il neorealismo. Un movimento culturale che è nato nell'immediato secondo dopoguerra e che ha in Roberto Rossellini, Luchino Visconti e Vittorio De Sica i suoi maggiori esponenti. Le immagini forti e indimenticabili di Anna Magnani in Roma, città aperta, rimangono ancora oggi una viva testimonianza di un'Italia che vuole liberarsi da tutti i vincoli e le costrizioni che hanno gravato durante il periodo fascista. La necessità di raccontare la realtà delle piccole storie di quartiere, della povera gente che in silenzio combatte ogni giorno una battaglia personale contro le difficoltà della vita, diventa un genere cinematografico dalle regole non scritte a cui appartengono i più significativi capolavori del cinema italiano. Ma torniamo al nostro set cinematografico. La scena è terminata e un altro tassello del film si è aggiunto. È un film difficile, tratto da un racconto di uno scrittore russo, Nikolai Vasilievich Gogol, intitolato Il cappotto. A dirigerlo c'è un regista che è rimasto impressionato dalla semplicità e contemporaneamente dalla forza di questo racconto e ha voluto a tutti i costi trasformarlo in un film. Questo giovane regista non sa ancora che quello a cui sta lavorando viene ancora oggi considerato da tutti i critici il suo miglior film. Non lo sa perché la sua carriera è appena iniziata e il suo nome non è così famoso come quello dei suoi colleghi Rossellini e Visconti. Ma per inseguire il successo bisogna credere prima di tutto a ciò che si sta facendo e il giovane regista è di Milano e della sua città natale ha la tenacia e la voglia di portare a termine il lavoro iniziato. Sul set, in una nebbiosa mattina pavese, a dirigere dietro la macchina da presa, c'è Alberto Lattuada. Alberto Lattuada. Mio padre, musicista, ha dato le sue opere principali alla Scala e questo mi dava modo, da ragazzino, di andare nelle coulisse del teatro. Mio padre mi lasciava scodinzolare nei corridoi. Allora io andavo dietro e vedevo le macchine, i cartoni, le tele, tutto questo insieme di cose assolutamente assurde viste da dietro. Poi correvo in platea e vedevo che si formava il tramonto, la tempesta, le cose più commoventi, più straordinarie. E allora dicevo, è bello impressionare il pubblico con degli artifici che danno delle emozioni straordinarie. Alberto Lattuada cresce respirando il profumo del palcoscenico e rimane fin da giovanissimo coinvolto dalla vita del teatro e dalla magia che si prova nel rappresentare la finzione. Durante il periodo fascista lavora presso i GUF, i gruppi universitari fascisti, che non sono soggetti ad alcun tipo di censura e frequenta alcuni amici con cui condivide la passione per la cultura e il mondo dello spettacolo. Con uno di questi, figlio dell'editore Arnoldo Mondadori, fonda appena diciottenne il periodico quindicinale di cultura Camminare. Questa prima esperienza di giornalismo casereccio permette alla Tuada di approfondire alcuni temi che si ritrovano in quasi tutti i suoi film. In particolare, si appassiona di letteratura, divorando in una lettura frenetica uno dopo l'altro i più importanti capolavori di Machiavelli, Verga e poi i grandi scrittori russi, Pushkin, Chekhov, Gogol. Su Camminare scrive in veste di critico d'arte, mentre al suo fianco ad occuparsi di cinema c'è un altro amico, Mario Monicelli, uno dei maestri della commedia all'italiana. Santità, io avevo fatto un torto a un povero falegname giudio, ma sono riuscito corrompendo giudici, testimoni, uditori, guardie, avvocati, cardinali, abbati, funzionari, periti, amministratori a far condannare quel poveraccio solo perché lui, povero giudio, e io, ricco e cristiano. Comunque, santità, io mi inchino alla vostra volontà e sono disposto ad andare di buon grado in galera, purché in compagnia dei monsignori Ralla, Fanti e Bellarmino, dei cardinali Fioravanti e Bucci, degli uditori di prima istanza Ardenghi, principe di Colle Terzo, Soffici, duca di Sezze, del conte Unter von Kuyper, comandante della Guardia Svizzera, e dell'abate di Santa Maria la Minerva, don Pierruccio. E basta! A voglia, troppi ce ne so. L'amicizia con Mario Monicelli lo porta alle sue prime esperienze nel mondo del cinema, prima come sceneggiatore e poi come regista. Nel 1951 il suo primo successo, Anna, un film con un cast d'eccezione, dal momento che accanto alla protagonista, Silvana Mangano, recitano anche Raff Vallone e un giovanissimo e ancora sconosciuto Vittorio Gassman. Il film contribuisce notevolmente alla carriera di Alberto Lattuada, anche perché contiene un brano musicale che ottiene un grande successo e permette al film di superare per la prima volta nella storia del cinema italiano la cifra record di 1 miliardo di lire di incasso. La scena di Flo Sandon, che canta El Negro Zumbon, diventa così famosa da essere ripresa successivamente in altri 2 film di 2 grandi registi, Giuseppe Tornatore in Nuovo Cinema Paradiso e Nanni Moretti in Caro Diario. Alberto Lattuada ha raggiunto il successo, ma non è completamente soddisfatto. Facile sbancare il botteghino con Silvana Mangano, colei che è considerata l'attrice più famosa del momento, l'interprete di Riso Amaro. Lattuada sa che il merito del successo del film è dovuto principalmente alla presenza dell'attrice, e non ci sta. Vuole dimostrare di essere un regista di qualità, di saper dirigere un film senza avere bisogno di un attore di prim'ordine. Lattuada è fermamente convinto delle proprie capacità ed è quindi deciso a riprovarci. Questa volta però vuole sfidare il pubblico, affidandosi ad attori che non sono così famosi da garantire il successo al botteghino. In questo modo potrà esprimere tutte le sue capacità e confermarsi come uno dei più promettenti registi del panorama cinematografico italiano. Ma innanzitutto ci vuole una storia, un soggetto che sia in grado di interessare e piacere al pubblico. Dobbiamo ricordarci in che periodo siamo. L'Italia del dopoguerra è ancora profondamente sofferente per i drammatici avvenimenti che solo pochi anni prima hanno stremato un paese ridotto alla fame, diviso da una guerra civile, occupato da un esercito, quello tedesco, prima considerato amico e ora diventato il peggior nemico. Una nazione la cui economia è a terra e sta cercando di ripartire con lentezza e con fatica. Il cinema racconta storie di strada, ambientate spesso nei quartieri più poveri, dove ancora sono presenti i segni dei bombardamenti. Non è ancora tornata la voglia di ridere, di scherzare, di lasciarsi tutto alle spalle. Le ferite sono ancora aperte. Se può fare qualche cosa? Se hai tempo, cercherò te. Ma che, mi devo mettere a girare per Roma? Il consigliere io, che manco la conosco. Ma se ho dato la matricola, i connotati? Capirai, ci vorrebbe tutta la squadra mobile solo per stare a cercare le biciclette. Ma allora che la faccia a fare sta denuncia? I protagonisti disperati di ladri di biciclette sono il ritratto dell'Italia degli anni 50. La voglia di ricominciare è tanta, ma ci sono ancora molte cose da sistemare e una di queste è la burocrazia. Non stiamo certo parlando di un problema esclusivamente italiano, ma Lattuada sente il bisogno di raccontare quanto lenta sia la macchina amministrativa della sua nazione e quanto questa lentezza degli uffici pubblici condizioni la difficile ripartenza dell'economia italiana. Bisogna contribuire con ogni mezzo a denunciare questa situazione e il cinema è un mezzo di grande impatto per raccontare una storia su un argomento così attuale. Per l'arrivo di Sua Eccellenza tutto deve essere fatto. Ma abbiamo 7 operai. Ne avrete 70, 700. 700. Non le sembrano troppini? Sa, può anche darsi che scavando non venga fuori niente. Come niente? In questa zona sedimentaria il dado è tratto. Siamo in guerra e bisogna ballare. Ora innanzi avremo anche noi la nostra patente di nobiltà, che invano storici faziosi e interessati ci volevano contestare. Quando Alberto Lattuada legge il racconto di Nicolai Gogol intitolato Il cappotto, ha come un'illuminazione. La storia è semplice. Il protagonista del racconto è un burocrate russo che vive un'esistenza anonima all'ombra dei suoi superiori. Quando per un'occasione costata molti sacrifici riesce ad acquistare un cappotto nuovo, i suoi colleghi, che fino a quel momento lo hanno considerato come una nullità, lo vedono con un occhio di riguardo, tanto da invitarlo a un ricevimento importante. Allora questa sera lei parla col sindaco, voi siete qua? Sì, insomma, cercherò di parlargli di voi. Grazie, cavaliere, grazie. Ma non so se potrò. Oh, ma lei può tutto se vuole. Vada, vada. La gioia dura solo lo spazio di una sera, perché al termine del ricevimento il pover'uomo viene derubato del cappotto e per il dispiacere finisce con il morire di crepacuore. La rivincita, grottesca e surreale, il burocrate se la conquista diventando un fantasma che infastidisce i passanti cercando di rubar loro il cappotto, fino all'incontro con il suo superiore che lo ha tanto maltrattato, ma che di fronte al fantasma si redime e capisce i propri errori. Aiuto! Aiuto! Fantasma! Aiuto! Vuole, signor De Carmine, parli. Vuole il mio cappotto, ecco subito. No, signor sindaco. Vuole il suo? Proprio il suo? Già. Adesso chiama i carabinieri, la polizia, l'esercito, i carri armati. No. Una storia molto attuale per l'epoca. Ci sono ancora molti dirigenti pubblici che sono rimasti al loro posto malgrado non indossino più la divisa da gerarchi, e Alberto Lattuada sente il bisogno di denunciare la presenza di questo genere di personaggi. Vuole a tutti i costi fare questo film e vuole che il protagonista principale, il povero burocrate, abbia un aspetto umile, minuto, in grado di rappresentare al 100% la semplicità del personaggio. Non certo gli attori belli e tenebrosi che il cinema ci ha abituato a vedere. Qui non c'è spazio per Amedeo Nazzari o per Massimo Girotti. Occorre trovare un volto nuovo che stupisca il pubblico per la sua capacità recitativa. Mi lascerò morire d'amore e la sera dopo rinascerò, perché sempre vera la mia finzione. Nel pubblico qualcuno applaude il mio dolore e non mi ricordo della mia vita. La scelta di Alberto Lattuada ricade su un giovane attore di teatro, ma non stiamo parlando di teatro impegnato, non si rappresenta certo Shakespeare nei teatri nostrani dell'epoca. In Italia, negli anni 40, la fa da padrona la rivista. La gente ama andare a teatro per vedere le commedie musicali, le serate di avanspettacolo, e vuole prima di tutto divertirsi. Sono disinvolto, raccolto, assolto per inesistenza di reato. Ho una speciale predilezione per la fanciulla del vest, il Polo Nord e la carta moschicida. La comicità di Petrolini e di Totò sono l'esempio da imitare e i testi, semplici all'apparenza, nascondono delle sfumature che portano alla battuta basata sul doppio senso a sfondo sessuale o alla satira politica. All'inizio degli anni 30 si affaccia però sulle scene un giovane figlio d'arte. Il padre, Cesare Ranucci, è un cantante di operetta. La madre, invece, Paola Massa, una ballerina classica. Una coppia sempre in giro per l'Italia, inseguendo le tappe delle tournée. Ecco il motivo per cui il piccolo Renato nasce a Torino, per caso. I genitori sono infatti romani e sono fortemente attaccati alla loro città d'origine, tanto da aspettare quasi un anno prima di battezzare il proprio figlio a Roma, nella Basilica di San Pietro. Noi lo conosciamo con il suo nome d'arte, Renato Raschel. Renato Raschel. È brevo pure quel ragazzo torinese, quel Cit. Ah, Raschel Cit. Sì. Ma quello non è un ragazzo. Quello ha 47 anni. Quello è soltanto piccolino di statura. Tu che ne dici? Io dico che piace. Renato, sin da bambino, respira l'aria del palcoscenico ed è inevitabile che ne rimanga affascinato. I primi anni, però, li trascorre a Roma, a casa di una zia, senza per questo rinunciare al contatto con la musica. A soli 10 anni, infatti, entra a far parte del coro delle Voci Bianche della Cappella Sistina. Questa continua vicinanza con il mondo dello spettacolo lo porta a migliorare le sue capacità non solo di cantante, ma anche di ballerino e attore, tanto da iniziare, appena quindicenne, a lavorare col padre in teatro. Anche se i genitori non vogliono che il loro figlio intraprenda la carriera artistica, il richiamo del teatro è troppo forte e Raschel inizia a lavorare stabilmente nelle compagnie di avanspettacolo. Oltre a cantare e ballare, Renato Raschel intrattiene il pubblico con brevi monologhi. Molti dicono che io ho qualche cosa di Petrolini, ma no, non è vero, perché Petrolini era sarcastico, è vero, era pungente, io invece ero scemo. La sua è una comicità semplice e ingenua. Il pubblico però gradisce questo tipo di spettacoli e lentamente Raschel costruisce attorno ai suoi monologhi il personaggio fuori dagli schemi e dalla comicità imprevedibile che diventa la sua fortuna. L'Accademia, io quella d'arte drammatica non la conosco, io conosco solo un'Accademia, quella della la palestra del varietà, di quella che ci ha insegnato a vincere per forza, altrimenti vinceva il pubblico, altrimenti vinceva quello che diceva, cioè che tu dicevi, non so, annunciavi una canzone, non canto per voi, quello, allora se ne andiamo noi, e poi se tu non guadagnavi su questo e dicevi un'altra cosa che faceva ridere più di lui, uscivi dalla considerazione e avevi perso. Questa sua grande prontezza nel rispondere a tono alle provocazioni del pubblico, questo suo avere la battuta sempre pronta, lo rendono un mattatore del palcoscenico e in pochi anni si impone come uno dei più divertenti attori comici in circolazione. Quando nel 1939 scrive la canzone «È arrivata la bufera», si ritrova a fare i conti con la censura dell'epoca, che considera il testo della canzone non adatto al periodo di fermento politico che lentamente sta portando l'Italia in guerra. Ma il piccolo Renato va avanti per la sua strada e non c'è bufera in grado di fermarlo. Io ero al Teatro Valle che facevo così, un varietà, una cosa eccetera, quando facevo arrivata la bufera, è vero, guardavo il pubblico così con intenzione, è arrivata la bufera, e facevo così la gambetta, no? È arrivato il temporale, e tutti capivano. Destini incrociati. Destini incrociati sta raccontando la storia di un giovane regista alla ricerca dell'attore ideale per interpretare il ruolo del protagonista nel suo ultimo film. Intanto, nei piccoli teatri dell'avanspettacolo, un giovane pischello, come si dice a Roma, un ragazzino atletico ma dal fisico minuto, si sta facendo apprezzare dal pubblico per la sua comicità. Una comicità infantile, semplice, genuina, che viene apprezzata soprattutto dal pubblico più giovane. Raschel se ne accorge durante uno spettacolo teatrale a Bologna, dove il pubblico è composto principalmente da studenti. A differenza delle altre serate, il pubblico ride molto e questo è sufficiente a Renato Raschel per capire cosa deve migliorare per piacere di più. Gli italiani sono stanchi della comicità basata sui doppi sensi sessuali tipica dell'avanspettacolo. Ci vuole un umorismo più infantile, più surreale, dove l'attore ha un ruolo più legato all'improvvisazione. Ebbene sì, sono l'ultimo discendente della schiatta degli Alvaro. Il mio bisnonno fu Alvaro veramente corsaro, mio nonno fu Alvaro quasi sempre corsaro, mio padre fu Alvaro qualche volta corsaro e io sono Alvaro piuttosto corsaro. Forse per il fatto che mentre mio nonno discendeva dalla filibusta nera e mio padre discendeva dalla pirateria verde, io fino a poco tempo fa discendevo dalla circolare rossa appena vedevo salire il corsorone. Nasce così il Rush l'attore, ballerino e cantante che trova nella rivista il suo habitat ideale. Con Garinei e Giovannini, la coppia più celebre del teatro rivista italiano, Raschel consegue un successo dopo l'altro, con tre commedie scritte apposta per lui e musicate da Gorni Kramer. Atanasio Cavallo Vanesio, Alvaro piuttosto Corsaro e Tobia Candida Spia. All'onaro, alloncini gonfiati, palloni volanti che più li gonfia più vanno avanti. Questi palloncini sono gonfiati con un gas che di nome si chiama elio, il cognome non me lo ricordo, ma hanno detto terapico. Signor Pallonaro, sì? Oh signor Pallonaro, che mi darebbe un palloncino? No. Oh, e perché non me lo darebbe? Mentre tutti gli altri pallonari, quando un bambino chiede, signor Pallonaro, che mi darebbe un palloncino, quelli glielo danno. E io invece non te li do perché questi servono a me per volare quando devo attraversare la città. Perché col traffico che ci ritroviamo, se non ho questi palloncini rimango sul posto tutta la notte. E va bene, signor Pallonaro, comprendo le sue buone ragioni logistiche e quindi giustifico il suo diniego. Senta... Senta, ma le posso fare una domanda pertinente? Pertiche? Renato Raschel è anche un ottimo cantante e la musica la conosce bene. Le canzoni che scrive sono prima di tutto dedicate alla sua città, Roma. Il successo internazionale viene da una canzone che Raschel scrive con il cuore, raccontando quella città in cui è cresciuto e dove la sua carriera ha avuto inizio. Le note di Arrivederci Roma superano i confini nazionali fino a sbarcare in America. Ma prima di partire l'inglesina buttò la monetina e sospirò. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Il destino sta preparando un incontro fra Alberto Lattuada e Renato Raschel. E complice di questo incontro è un racconto di Nicolai Gogol, Il Cappotto. Alberto Lattuada è reduce del successo di Botteghino Anna con Silvana Mangano e ha la fortuna di poter decidere liberamente l'argomento del suo prossimo film. Esperto di letteratura russa, così lontana per certi aspetti dalla cultura italiana, ma altrettanto ricca di punti di incontro, Lattuada sente il bisogno di raccontare le storie della povera gente, i drammi di quartiere, i soprusi subiti da chi sopporta in silenzio la prepotenza dei propri superiori. Questo è in sintesi il riassunto del racconto Il Cappotto di Nicolai Gogol. E Lattuada intende adattarlo alla realtà italiana. Bene. Ah, molto bene. Grazie, signor sindaco. Li ha fatti tutti lei? Sì, signor sindaco. Vede, lei però sono un po' difficile ad arrotondarci perché c'è la gamba che è un po' difficile. Lo so. Il gotico è una scrittura difficile. Sì, signor sindaco. Bene, molto bene. Signori, mi compiaccio del vostro lavoro. Volevo dirvi... Ah, già! Volevo dirvi che non sono del tutto soddisfatto dell'andamento di questo ufficio. Bisogna fare di più e meglio. Specialmente adesso, siamo alla vigilia di un avvenimento, di un evento di singolare importanza, di cui sarà dato a suo tempo speciale comunicazione. La scelta di ambientare la storia a Pavia, nella provincia italiana, è casuale. È Pavia, ma potrebbe essere decine di altre città italiane. Quello che importa alla Tuada è trovare il protagonista giusto del racconto, il povero burocrate russo della versione originale che nell'adattamento italiano diventa un semplice impiegato comunale preso in giro dai colleghi e maltrattato dal sindaco e dagli altri membri della giunta. Un uomo modesto, che deve essere minuto, piccolo di statura, una parte che sembra un cappotto tagliato ad arte su una persona, Renato Raschel. È un po' sciallato. Quasi per ironia della sorte, i primi sketch che fanno conoscere al grande pubblico il piccolo Renato Raschel sono quelli nei quali indossa un cappotto molto più grande della sua taglia, cosa che lo fa apparire ancora più piccolo di quanto sia veramente. Chi fa cinema sa che a volte dietro alla maschera di un clown può nascondersi un grande talento. Renato Raschel non ha avuto fino a questo momento grandi esperienze cinematografiche. Dal grande pubblico lui è considerato un giullare dalla battuta sempre pronta e nessuno può pensare a lui come un attore drammatico. Nessuno, tranne Alberto Lattuada. Quando infatti il regista gli fa leggere il copione e gli chiede di interpretare il ruolo del protagonista, Raschel non si lascia intimorire da questa sfida. Caro professore, il suo sogno, cioè il nostro sogno, o il vostro sogno, punto. Freddo nordico, caro professore, freddo sano che snebbia il cervello. E si trova il cipollino che qui potete ammirare. 7 operai, ma neanche per sogno. Ne avrete 700 o 700.000 avanti Cristo. Approviamo? Tanto siamo in guerra e bisogna ballare. Tanto più che deve arrivare Sua Eccellenza. Basta, lei è un deficiente, non ha capito nulla. Fuori! Ogni attore comico che si rispetti ha un sogno nel cassetto, quello di interpretare un ruolo drammatico. E Raschel non è da meno. Oramai, dopo 20 anni di carriera nel varietà e nell'avanspettacolo, non ha più paura di affrontare il pubblico e non ha neanche bisogno di conferme per il suo talento comico. Ma la migliore sfida è quella che non si è ancora affrontata. E così Renato Raschel ascolta con attenzione la proposta di Lattuada e, senza neanche pensarci più di tanto, accetta di interpretare il ruolo di De Carmine, il piccolo, insignificante impiegato comunale che Alberto Lattuada ha ridisegnato per lui sul testo originale di Gogol. Che non c'è niente da accomodare. Si potrebbe mettere una pezza. Una pezza? Ma chi l'ha detto? No. Ma lei o sono io? Esatto. Chi è? Lei. Una pezza. Non sa neanche dove appoggiarla. Qui non si può neanche sforbiciare. Senta, si potrebbe mettere una pezza di un altro colore. Ma io sono un artista. Ce la metto lei una pezza di un altro colore. Ma qui non c'è niente da fare. Qui ce ne vuole uno nuovo. Come nuovo? Nuovo. E i cosi, chi me li dà? Che cosi? I soldi. I soldi? Allora si tenga questo straccio. Poi non mi faccia perdere tempo. L'inizio delle riprese non è facile. Sia la troupe sia gli altri componenti del cast non sono molto fiduciosi sul fatto che Renato Raschel sia all'altezza del personaggio che deve interpretare. Tutti sanno che Raschel è un attore comico. Nessuno lo ha mai visto alle prese con un testo drammatico e il dubbio può essere legittimo. Ma Alberto Lattuada, che è fermamente convinto di avere trovato l'uomo giusto per quella parte, non si lascia influenzare dall'aria pesante che regna nei primi giorni di lavoro. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati ha visto nascere un piccolo capolavoro del cinema italiano. Alberto Lattuada ha diretto Renato Raschel nell'adattamento italiano del racconto di Nikolaj Gogol Il cappotto. I consigli che Alberto Lattuada dà al suo attore sono preziosi e oltretutto Renato Raschel è uno che impara in fretta. È una capacità che ha acquisito e raffinato sul palcoscenico e non si lascia scoraggiare dalle difficoltà iniziali. Inoltre, Renato è un buon ascoltatore e fa tesoro dei consigli di quel giovane regista che ha voluto riporre in lui la sua fiducia. È un capolavoro, sai? È un vero capolavoro. Tutto il palazzo l'ha visto, avrà domandato, ma di chi è questa meraviglia? Io ho detto di un pezzo grosso, un mio amico. Vogliamo vedere? Sì. Voilà! Che meraviglia! Giorno dopo giorno sul set, nelle nebbiose mattine della Bassa Pavese, Renato Raschel conquista piano piano la fiducia del cast e della troupe, che inizialmente hanno mostrato scetticismo nei riguardi del piccolo giullare dell'avanspettacolo. Il personaggio meschino e maltrattato da tutti nel film sembra uscire allo scoperto, come se un clown avesse calato la maschera e avesse voluto mostrare il suo vero volto. Alberto Lattuada segue il piccolo attore con le inquadrature della cinepresa e fissa su pellicola alcuni primi piani così intensi da rimanere come esempio nella storia del cinema drammatico italiano. Una scommessa del regista che ha voluto scegliere per un ruolo drammatico un attore del varietà, un clown dalla battuta sempre pronta che mai prima di questa occasione si è cimentato in un ruolo così impegnativo. Una scommessa vinta, dal momento che con l'interpretazione di De Carmine, il timido impiegato comunale che muore di crepacuore dopo aver subito il furto del suo cappotto nuovo di zecca, Renato Raschel vince il Nastro d'Argento e al Festival di Cannes contende la Palma d'Oro di migliore attore a Marlon Brando. Una bella soddisfazione perché ha fatto tanta gavetta nell'avanspettacolo. Stasera in questo teatro Raschel entra, lui invece pure, dalla parte del pubblico. Si conferiscono i Nastri d'Argento, gli Oscar italiani. E Bubbio lo consegna a Gora per la regia di Febbre di Vivere. E poi a Luigi Zampa per Processo alla città. In platea attrici come Marina Berti. Sulla scena gli invisibili del cinema come l'operatore Serafini, premiato per la migliore fotografia. Alla ribalta Gabriele Ferzetti, protagonista della Provinciale. A Raschel viene riconosciuto, oltre all'interpretazione, l'estroso contributo dato alla Lattuada nel cappotto. A differenza del cappotto, il Nastro d'Argento nessuno glielo porta via. L'arcobaleno si frantumò nel mio giardino, si riversò. E perciò in ogni fiore resta il colore d'un po' di cielo. Il ruolo interpretato da Renato Raschel nel film Il cappotto sembra essere solo in apparenza una sporadica incursione del comico nel cinema drammatico. In realtà, come molti critici sostengono, Renato Raschel dimostra di essere un attore completo. Un artista in grado di passare con incredibile facilità dalla canzone al ballo, dall'interpretazione di un ruolo difficile e impegnativo al monologo comico. Un artista con la A maiuscola, che si permette anche un'incursione al Festival di Sanremo in coppia con Tony Dall'Ara. Tu sei romantica, amarti è un po' rivivere. Nella semplicità. I tempi cambiano. Negli anni successivi Renato Raschel deve fare delle scelte. Dopo altre sporadiche incursioni nel cinema, è ancora la rivista a dargli le maggiori soddisfazioni. Ma l'avvento della televisione porta Raschel a entrare nel cuore delle famiglie col personaggio di Padre Brown, il prete investigatore dei racconti di Gilbert Chesterton. Ma non capisce che democrazia e tradizione hanno lo stesso meccanismo? La democrazia ci insegna a non trascurare l'opinione di un saggio, anche se è il nostro fruttivendolo. Beh, giusto. La tradizione ci chiede di non trascurare l'opinione di nostro nonno, anche se non è un saggio. Anche Alberto Lattuada vive con fortuna un'incursione nel mondo della televisione. Nel 1984, una coproduzione internazionale, di cui fanno parte la Rai e l'americana Lorimar, produce lo sceneggiato Cristoforo Colombo, del quale Lattuada è sceneggiatore e regista. Una produzione gigantesca, con un cast di prim'ordine di cui fanno parte Gabriel Byrne, Faye Dunaway, Max von Sydow e tra gli italiani Rossano Brazzi e Virna Lisi. Un vero e proprio colossal, che ottiene un successo strepitoso e viene trasmesso anche negli Stati Uniti. Lisbona è una bella città. Io amo il mare. Beh, allora, non che sia felice di dirtelo, ma so che una caravella salpa per Malta e Venezia tra due giorni. Stanno cercando un capitano. Ti ringrazio, ma no. Perché? È un comando e una buona paga. Ecco, vedi, io ho attraversato il Mediterraneo in lungo e in largo. Adesso devo imparare a navigare l'oceano. Devo. Ti esprimi come se fossi spinto da una frusta invisibile. Forse lo sono. Renato Raschel ha interpretato in teatro anche La strana coppia, la commedia di Neil Simon, e lo ha fatto dividendo il palcoscenico con Walter Chiari. Ma a pensarci bene, una strana coppia si è già formata qualche anno prima, tra le case semi-nascoste della nebbia e i ponti di Pavia. Una strana coppia per davvero, visto che la passione per la letteratura russa di uno si contrappone alle battute da avanspettacolo dell'altro. Ma a pensarci bene, spesso i risultati migliori si ottengono unendo gli opposti. Forse per questo che Alberto Lattuada e Renato Raschel, due persone così diverse per formazione artistica, si sono incontrate e sono riuscite a legarsi con un filo invisibile. Forse è bastato uno sguardo, forse no. Ma quello che conta è che insieme ci hanno regalato una delle pagine più belle del cinema d'autore italiano. Ora affido a questo caro palloncino la speranza di tornare ancora bambino. Gli domando dove e quando vi potrò ritrovar ed insieme con voi sognare. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.